Allora, ciao a tutte e tutti. Ciao! Questo è un altro podcast della Coordinamenta in vista dell'8 marzo e quindi abbiamo deciso di parlare di memoria. Sì. E quindi io vorrei cominciare facendo una domanda. Che cos'è la memoria femminista? Allora, secondo noi è un processo attivo e non un processo di monumentale, cioè nel senso calcificato. Nell'introduzione di Atti alla memoria collettiva e memoria femminista del 2012 c'è una frase che vorrei citare, anche se insomma, lo potete trovare sul blog nella sezione di autoproduzioni e trovate tutto il testo completo scaricabile. E la frase è questa: è un'occasione per produrre nuove possibilità e dove un senso agli eventi presenti e futuri. E quindi, perché abbiamo deciso di fare ad oggi un podcast sulla memoria femminista, per riprendere dei fili e per far sì che questa memoria non rimanga chiusa nel cassetto e che non sia semplicemente sui libri, e anche perché ci siamo accorte che sui libri c'è un certo tipo di femminismo. Un certo tipo di femminismo che noi non neanche riconosciamo tale, tra l'altro, perché è molto istituzionale, è molto collaborazionista. E questa memoria viene trattata come un reperto archeologico, che viene tirato fuori così, tanto per essere mostrato e visto appunto dal pubblico e poi rimesso nel cassetto. E quindi noi vorremmo invece creare delle connessioni che siano utili alla lotta oggi, che siano utili per comprendere il presente e quindi poi costruire il futuro. Essere femministe quindi non significa essere solamente emancipatorie, come è quello che un po' si muove ad oggi, e né fare lotte categoriali che riguardano esclusivamente questioni di, chiamiamole, donniste, cioè solo di donne. O a favore delle donne, ma riguarda appunto la politica di tutto l'esistente, per cui il femminismo non si occupa solamente di quello che riguarda appunto una categoria donne, ma riguarda la politica, la guerra, tutto quello che ci riguarda. E quindi è necessario rimettere un po' i puntini e anche tirare fuori una parte della nostra memoria femminista, che è stata completamente oscurata. E è stata oscurata probabilmente perché non era interessante per quello che era poi la volontà, diciamo, di chi è l'oppressore in realtà. Quindi, appunto, abbiamo detto, è un femminismo emancipazionista e collaborazionista. Anche perché bisogna ricordarlo sempre che il femminismo non è pacifista, nel senso becero della parola, non reagisce con forza all'oppressione, è determinato. E quindi la memoria di questo femminismo è un femminismo in continuo movimento, è un femminismo che necessita sempre di essere rimestato nelle lotte di oggi. E quindi non è solo per è un femminismo che non dimentica, ma genera anche autodeterminazione. E quindi, prima insomma, di entrare nel vivo del podcast, mi piaceva questa frase che noi siamo tempesta e vogliamo la luna. Bene, mi piace questa frase, lo sai? Sì, perché in effetti il punto in cui siamo arrivate necessita veramente di quello che hai detto tu, di un recupero della memoria, di un certo tipo di memoria che è stato assolutamente silenziato, marginalizzato e che le giovani generazioni di donne non conoscono affatto. Ed è anche difficile da rintracciare perché la documentazione, i testi scritti, ma anche la stessa fotografia, le foto dei cortei, appartengono tutte al femminismo che poi si è imposto come femminismo, giusto, Guarda, su femminismo. questo ti interrompo un secondo perché volevo sottolineare che, per esempio, quando si va a vedere la parte, diciamo, appunto audiovisiva negli archivi, si trova quasi solo Ludi. Certo, questo, che insomma, dice tutto, lunga sulla nostra memoria. Che oltretutto l'UDI femminista non si può assolutamente definire, anche se negli anni 70 ha partecipato in lungo e in largo, però... Allora, a questo proposito proprio, ci sono due nodi che ci trasciniamo dietro dagli anni 70 in maniera... non solo irrisolta, ma anche del tutto, diciamo, stretti in una morsa falsificata, e che sono quelli della violenza politica e della delega e dell'affidamento. Io sto parlando sempre all'interno delle teorizzazioni femministe e all'interno del nostro ambito, che questi due, diciamo, concetti riguarderebbero tutto il movimento, ma noi parliamo del nostro specifico. Allora, per poter fare un'operazione che sia di memoria molto concreta e che faccia capire quali erano in effetti le varie anime e i vari momenti in cui si esplicitava il femminismo negli anni 60 e 70 in senso lato, perché prendiamo in considerazione un range che va dagli anni 60, dal 65 fino agli anni 80, no? Fino all'84 più o meno, però gli anni 70 costituiscono il nucleo più importante. Gli anni dal 70-71 al 79-80 costituiscono un decennio che è rappresentativo di quello che è successo prima e di quello che succederà dopo. Allora, per esempio, per far capire le anime diverse che esistevano e quale anima è stata portata avanti strumentalmente e in maniera molto precisa, ma soprattutto in maniera molto sofisticata, nel senso che il sistema ha trovato dei modi per far passare questo come il femminismo vero. Allora, prendiamo per esempio la storia del governo vecchio, no? Il governo vecchio è una casa delle donne famosissima ormai, che è passata alla storia come, e ancora adesso chi la nomina la sente come, un'esperienza femminista molto importante. E allora, proprio per farvi capire che cos'era il governo vecchio, quale anima rappresentava e cosa c'era fuori, ve la racconto un po'. Allora, il governo vecchio è, cioè, si parla del governo vecchio parlando di un'occupazione di uno stabile in via del governo vecchio 39, che è Palazzo Nardini, proprio in centro a Roma, che il 2 ottobre del 76 viene occupata dall'MLD, dall'UDI, da altre soggettività tipo noi donne, e viene dichiarata casa delle donne. Però dobbiamo ricordarci sempre questo. Allora, l'MLD è Movimento di Liberazione della Donna, è un'affiliazione del Partito Radicale. Allora, il Partito Radicale in quegli anni ha avuto un ruolo molto importante nel portare avanti le battaglie per i diritti civili, ma tutte, spero, sappiamo che cos'è il Partito Radicale. Allora, adesso l'MLD è un'affiliazione, è stata un'affiliazione del Partito Radicale con lo stesso imprinting del Partito Radicale, vale a dire una soggettività tutta interna al sistema, assolutamente senza nessuna velleità, non dico di rivoluzione, ma soltanto di cambiamento democratico e di diritti civili all'interno del sistema capitalista. E questo tipo di impostazione è quella con cui ha praticamente costruito l'occupazione del governo vecchio. Tant'è vero, quando l'occupazione del governo vecchio è iniziata, si sono legate all'MLD, l'UDI, noi donne, che sono anche quelle, cioè non sono situazioni e associazioni e gruppi femministi, sono tutte filiazioni. Per esempio l'UDI è legata al Partito Comunista, no? Era legata al Partito Comunista, noi donne e lo stesso, non immediatamente, ma comunque l'ambito era quello. E quindi tutte soggettività interne al percorso, chiamiamolo così, di democratico emancipazionista per i diritti. Tanto è vero che tutto quello che hanno fatto è in quest'ottica, cioè la prima cosa che hanno fatto è andare al comune a chiedere la luce, perché per un anno non c'è stata la luce, erano al buio. Chiaramente in quel contesto rivoluzionario, perché questo era il contesto degli anni 70, un'occupazione di donne ha avuto una notevole eco e sono cominciati ad affluire tutta una serie di collettivi all'interno del governo vecchio, e soprattutto il fiore all'occhiello erano i collettivi di lesbiche, i collettivi lesbici, che hanno costituito una parte molto importante nel definire il governo vecchio come alternativo, innovativo, rivoluzionario, femminista e compagnia cantante. Contemporaneamente però fuori c'era altro. Nel senso, a questa occupazione è stato dato tanto risalto e tanto supporto, tant'è vero che la paura di uno sgombero, a parte che in quegli anni la paura degli sgomberi era, per modo di dire, no? Dovevi essere un altro tipo di livello, poi le donne no. Però la paura dello sgombero era inesistente, perché il governo vecchio ha avuto un rapporto continuativo con l'istituzione sotto tanti punti di vista: da una parte il comune, dall'altra le petizioni allo Stato per avere gli sportelli, dall'altra la petizione cioè loro praticamente camminavano su un rapporto continuo di comunicazioni, petizioni, richieste allo Stato e alle istituzioni. Era proprio un imprinting che avevano impostato. Allora, rispetto invece a questo tipo di impostazione, ce n'era fuori un'altra completamente diversa. Voi dovete sapere che il femminismo in Italia non data dagli anni 70, data molto da un decennio prima almeno, perché c'è Daniela Pellegrini che ha fondato il DEMAU nel 65, siamo nei 10 anni prima, e Daniela Pellegrini è una femminista che ha un imprinting assolutamente diverso, anti-istituzionale, materialista, seppure non di impronta marxista, perché è diversa da quello che eravamo noi quella volta. Però Daniela Pellegrini ha un percorso politico femminista di tutto rispetto, assolutamente fuori da questo tipo di logica, almeno fino agli anni 80, dopo gli anni 80-90, c'è Daniela Pellegrini seconda parte, però questo è un altro discorso. Allora, fuori c'era già appunto Daniela Pellegrini, che tanto per fare un esempio, c'erano una miriade di piccoli collettivi, tant'è vero che le manifestazioni del femminismo degli anni, fine anni 60, dei primi anni 70, non sono guidate da qualcuno, è il movimento femminista. Per esempio, io parlo della situazione romana, il movimento femminista romano, le manifestazioni erano una miriade di piccoli gruppi, di piccoli collettivi che si trovavano in piazza e che costituivano una continua fonte di sperimentazione, di autonomia, di presa in carico delle situazioni più diverse, che hanno sperimentato il self-help, l'autocoscienza, l'autoaffermazione, la medicina alternativa, i consultori autogestiti, no? Allora, noi avevamo un consultorio autogestito in via Monte della Farina, ma la legge sui consultori viene fatta nel 75. Nel 75 la legge sui consultori è la risposta a tutto questo proliferare di esperienze autogestite e di autogestione e autodeterminazione, per cui è una risposta dello Stato a un certo tipo di posizionamento indipendente da parte della politica delle donne. Il governo vecchio, invece, che apre oltretutto anche al suo interno una specie di consultorio autogestito, eccetera, è integrante di questa parte integrante di questa politica, tant'è vero che i consultori loro li spingono, li accettano, li sponsorizzano, spingono le donne a inserirsi nei consultori per, secondo loro, gestirli dall'interno, cosa assolutamente ridicola. E mentre fuori c'è invece tutto un mondo di femministe che è contro i consultori, è contro la legalizzazione dell'aborto, ma per l'aborto libero, è contro il rapporto con le istituzioni. E io ho messo da parte alcuni pezzetti che vi vorrei leggere. Uno è di Daniela Pellegrini, che è contro l'emancipazionismo, per esempio, no? Il rapporto con le istituzioni, ma qui stiamo parlando del 65, cioè non stiamo parlando degli anni 80, che dice: esistono in Italia e all'estero numerose associazioni e movimenti femminili che si interessano ai problemi della donna e alla sua emancipazione. La caratteristica comune di tali associazioni è quella di agire per l'istituzione di particolari accorgimenti pratici al fine di inserire la donna nella società, così come è costituita al momento. Da una parte, cioè, l'azione di tali associazioni intende liberare la donna dall'impasse dei compiti femminili che la limitano nell'azione extrafamiliare, cioè tanto di punto esclamativo. Dall'altra, pretende per lei un trattamento di favore, appunto perché nel momento presente le impasse non sono superate e anzi sono riconosciute sostanziali e inscindibili dall'essere femmina. Allora, questo viene scritto nel 65. Dopodiché c'è tutto un mondo che si oppone ai consultori, fra cui il nostro autogestito che stava in via Monte della Farina, perché i consultori nel movimento femminista nascono come strutture politiche in cui la donna partecipa alle attività, le costituisce, autocoscienza, self-help, gli aborti fatti da soli, conoscenza della medicina alternativa, separatismo, e gli esperti, quelli tra virgolette, che costituiscono poi invece l'asse portante del consultorio, quello pubblico, stanno fuori. Cioè il ginecologo, l'avvocato, lo specialista di qualsiasi tipo, sono dei servizi esterni, noi così li avevamo strutturati, che chi viene al consultorio e partecipa della vita politica del consultorio può avere, però possono essere cambiati in qualsiasi momento, possono essere cacciati in qualsiasi momento, perché non fanno parte della struttura politica. Oltretutto c'era una consapevolezza netta che quando l'esperto, di qualsiasi tipo sia, entra in una struttura politica, siccome ha degli interessi specifici, cerca sempre di condizionarla. E poi possono venire fuori delle differenze di opinione, delle differenze di impostazione. Il tecnico è sempre un tecnico che cerca di qualificare il più possibile il suo operato, no? Questa è una. Dopodiché c'era tutto il femminismo che stava fuori, era contro, per esempio, la psicanalisi, gli psicologi, la psichiatria, e mentre chi stava al governo vecchio aveva un'impostazione, le psicologhe sono importanti, capiscono il comportamento, ti possono aiutare, ti possono fare. Noi abbiamo, con altre però non eravamo soltanto noi, era molto generalizzata questa posizione, eravamo contro i consultori pubblici perché sono dei canali di trasmissione dei valori dominanti, contro la facoltà di psicologia e psichiatria perché li consideravamo poliziotti in camice bianco, contro addirittura le assistenti sociali perché erano delle strutture che non erano fondate sull'autodeterminazione delle donne, ma su un sussidio statale che ti veniva elargito a seconda se lo Stato ti considerava o meno in caso di in situazione di bisogno. Allora, per esempio, c'è un volantino dell'AID Femminismo Roma che dice: i consultori programmati e finanziati dallo Stato sono organismi al servizio del potere, finalizzati al controllo del numero della popolazione, canale di trasmissione dei valori dominanti, strumento di manipolazione delle coscienze, baluardo contro le soluzioni alternative e le prassi diverse. Questo perché? Perché nel momento in cui tu istituisci una struttura pubblica in cui passano aiuti, suggerimenti, informazioni, queste possono cambiare a seconda dei desiderata dello Stato e a seconda di quello che ha in programma lo Stato. Tant'è vero che adesso si scaldano tanto per il fatto che sono entrati pro vita, no? Che Giorgia Meloni ha fatto entrare pro vita. È chiaro, il governo ha un certo tipo di impostazione, nella struttura di Stato fa entrare quello che è il suo programma, no? L'equivoco è l'esistenza stessa dei consultori, cioè i consultori non dovrebbero esistere. Lo Stato deve dare il servizio, cioè deve esserci il servizio di ginecologia, il servizio di ostetricia, l'assistenza al parto, l'assistenza a qualsiasi cosa ti possa servire, ma è una questione tecnica, non è una questione, perché altrimenti diventa una questione politica. Deve essere più, la risposta deve essere il gratuito e deve essere l'esistenza del servizio, ma non deve essere caricato di, per quanto possibile, perché un servizio pubblico è sempre caricato di impostazione politica, però dovrebbe fare in modo di renderlo il più asettico possibile, perché questo per esempio coinvolge tutti gli ambiti in cui entra lo Stato, però assolutamente no considerarlo un servizio essenziale, un servizio che ci deve essere. Però l'equivoco qual è stato? Che riguarda, prima ancora voglio leggervi il comunicato delle compagne di Bologna, perché l'equivoco è stato proprio questo, il fatto che dentro i consultori, in una fase in cui lo Stato apre al lavoro pubblico, apre il lavoro pubblico alle donne, quindi apre qualsiasi possibilità lavorativa alle donne, che è positivo, intendiamoci, però che cosa fa in questo modo? Le attira nella cogestione della loro stessa oppressione, e questo è il problema, cioè nel momento in cui tu entri a lavorare, viene attirata e dici sì, entri a lavorare in un consultorio, cosa che infatti era la politica del governo vecchio Affini, le donne devono entrare dappertutto perché in questo modo condizionano le strutture di Stato, invece in questo modo le strutture di Stato le usano. A questo proposito voglio leggervi il volantino delle compagne di Bologna, subito dopo l'approvazione dei consultori familiari, ricordiamoci sempre che si chiamano consultori familiari. Allora, alcuni collettivi femministi occupano la sede dell'Istituto di Medicina Preventiva a Bologna e questo è il loro documento. Uno degli obiettivi del movimento femminista era la pratica del self-help e dell'autogestione, ma dopo l'entrata in vigore della legge sui consultori, le compagne che vi si trovavano all'interno fanno solo volontariato e non hanno nessun potere decisionale rispetto alla struttura e perciò nessuna incidenza politica. Noi rifiutiamo i consultori perché, lungi dall'essere una struttura realmente ed efficientemente al servizio delle donne, si configura sempre di più come strumento di controllo capillare su di noi e sul sociale. Infatti, al processo di ristrutturazione del capitale che si attua con l'introduzione del lavoro a termine, del lavoro precario e del lavoro decentrato, corrisponde una risposta istituzionale in termini di servizio controllo. È in questa logica che il consultorio non si slega da un discorso più in generale sui servizi, in particolare quelli sanitari. Infatti, all'interno di questi il controllo va dalla schedatura sulla vita privata delle donne, famiglie, interessi politici, rapporti, condizioni economiche, usi di stupefacenti, al potere di decidere quali farmaci prescrivere. Tutto questo fa di noi, lavoratrici, precari, studentesse, fuori sede, non garantite in genere, oggetti di ristrutturazione e di controllo, mentre noi rivendichiamo il nostro essere soggetti politici e forza eversiva. Ed è per questo che noi non intendiamo entrare in queste strutture per migliorare e potenziare il servizio dei consultori. Ricordiamoci sempre che questo è il 75, Cioè, quello che mi stupisce è che dal 75 adesso, o dal 65 addirittura con Daniela Pellegrini, nessuna si sia posta delle domande. Voglio dire, che cosa sono i consultori? Solo per parlare di un argomento, a cosa servono? Chi li gestisce? Oltretutto, quando sono stati istituiti, noi che avevamo il consultorio autogestito, subito siamo state contattate per diventare consultorio pubblico ed essere pagate. Cioè, noi abbiamo detto di no, però tanti hanno detto di sì, perché è chiaro che passare da una struttura autogestita politica a una struttura retribuita, cioè, no? fa sempre comodo. L'equivoco non è che se una fa un lavoro si vende. Fare un lavoro serve anche per la sopravvivenza e per avere anche autonomia politica, tutto sommato. E non dire che poi va bene, sono due cose diverse. Non avallare questa sera. Una può avere il lavoro e rimanere critica e dire le cose come stanno, no? Allora, questo per esempio solo per parlare dei consultori, perché c'è un libretto nostro fatto nel 75-76, quando è uscita 75 dicembre 75, quando è uscita la legge sui consultori, che ha l'analisi punto per punto del funzionamento, degli obiettivi e di cosa sono i consultori pubblici. Allora, stavo pensando che forse come contributo alla memoria lo potremmo mettere sul blog. Sì, perché no. E anche per quanto riguarda la 194, no? Cioè, c'è un passaggio tipo questo, no? Sottolineiamo, quella volta dicevamo, la scelta in favore dell'aborto libero, gratuito e garantito, in contrapposizione all'aborto legale, che considera uno strumento di potere, noi consideriamo uno strumento di potere in mano alla classe dirigente ed espressione tipica e inconfutabile della pianificazione della popolazione. Oppure il fatto che l'aspetto classista e il ruolo subalterno della donna nella nostra società sono favorite dalla psichiatria, dalla psicologia, nonché dalla sessuologia e da tutte quelle specializzazioni che manipolano i problemi umani. Allora, tanto per parlare di alcuni argomenti, invece ci sono le strutture, appunto, tipo il governo vecchio, che portano avanti tutta un'altra sede, cioè una politica filo istituzionale di affidamento alle istituzioni, di rapporto con le istituzioni, dato che non hanno la luce, per un anno non c'è la luce, vanno a chiedere in comune che gliela allaccino, dato che non c'è un certo tipo di... Loro si rapportano sempre con il comune e le istituzioni. Però questo è un aspetto, c'è un aspetto ancora più importante che quest'altro. Quando si facevano le... perché poi a un certo punto, no, si va al governo vecchio, i collettivi vanno al governo vecchio, è diventato un riferimento, è diventato una cosa importante. Quando si va al governo vecchio e facevamo queste assemblee la sera, al buio, che eravamo tante, a lume di candela, se tu però ponevi una questione che non era in linea con la linea politica di chi gestiva la struttura, alla faccia della orizzontalità, della condivisione, della politica femminista e compagnia cantando, non ti si filavano per niente. Cioè, Non riuscivi neanche a entrare in rotta di collisione, perché se tu entri in rotta di collisione e ti accapigli su un principio politico su cui non sei d'accordo, c'è sempre comunque uno scambio e la platea può prendere posizione, può riflettere, può pensare, compagnia bella. No, le assemblee al governo vecchio erano di questo tipo. Si andava lì, a fatica si poteva intervenire e quando intervenivi non eri esistita, era come se tu non avessi detto niente. Poi alla fine uscivano col comunicato loro. Quindi la partecipazione all'Assemblea del Governo Vecchio, al di là del piacere collettivo che poteva venire dal fatto di essere in tante, non solo non servivano a niente, ma erano emblematiche di una. E questa divisione in posizionamenti così forti del movimento femminista c'è stata anche su altre cose. Un altro tema importantissimo era quella della, chiamiamola così, violenza politica, tanto per parlare in senso lato. Cioè, violenza politica significa che tu consideri l'autodifesa, il rispondere alla violenza delle istituzioni, consideri quella che mette in atto l'istituzione contro di te una violenza, è una parte importante dell'agire politico, della risposta politica, perché in quegli anni le risposte politiche attive e addirittura c'erano le azioni di lotta armata erano importanti. Bene, quello della violenza politica è stato un altro piano che praticamente ha provocato, anzi, è stato il piano forse che ha provocato proprio la rottura definitiva fra questi due ambiti del femminismo. Allora, un'assemblea furibonda, più che furibonda no, perché furibonda per modo di dire, furibonda per chi non veniva ascoltata, perché il clima non era mai furibondo, perché non ti si filavano per niente, è stata dopo l'uccisione di Giorgia Ramasi. Quella forse è stata l'assemblea in cui è stato decretato, si è consumata una rottura definitiva. Nonostante poi sia stata fatta per Giorgiana la manifestazione, ci sia quella bellissima poesia che ancora ricordiamo tutte, però all'interno del movimento femminista la rottura è stata definitiva, perché secondo il femminismo che veniva propagandato sui giornali, che era vincente, eccetera, eccetera, il femminismo è non violento, il femminismo è le risposte sono diverse, perché noi siamo diverse dai maschi, la violenza è maschile e le donne non possono, è fuori dalla loro dimensione fare violenza politica. E qui, dopo Giorgia Namasi, praticamente noi non abbiamo più messo piede, dopo l'assemblea di Giorgia Namasi, non abbiamo più messo piede, che già si parla del 77, quindi di fatto si sono consumati gli anni 70, e gli anni 70 sono stati proprio un periodo di grande chiarezza, tutto sommato. Se uno si mettesse a studiare gli anni 70 e come dovrebbe essere, io parlo sempre del femminismo, come dovrebbe essere doveroso, si accorgerebbe che il culmine dell'agire femminista alla fine degli anni 70 era già minato da questi concetti, cioè il rifiuto, il fatto che il femminismo è non violento, il fatto che il femminismo è emancipazionista, che l'emancipazionismo è stata una risposta positiva. Allora, a questo punto mi vengono in soccorso le parole di Christine Delphi, che dice che tutte le diciamo i vantaggi, chiamiamoli così, le leggi che sono state ottenute durante quegli anni, perché anche lei è partecipe di quegli anni in Francia, sono dovute però al fatto che il femminismo vero chiedeva tutt'altro. cioè nel momento in cui io voglio autodeterminazione, non lo pretendo, faccio da sola, allora lo Stato ti dà in risposta un contentino, ti dà in risposta una legge, ti dà in risposta... Cioè è sempre il livello molto alto dell'agire rivoluzionario che ti permette poi di avere delle ricadute positive, se non altro a livello di diritti. In questo mi viene in mente un testo molto bello che ha fatto Silvia De Bernardinis sull'illegalità come fonte del diritto, cioè che è l'agire nell'illegalità e portare avanti con determinazione quello che vuoi, tipo in questo caso nell'aborto, noi facevamo gli aborti da soli, che poi conduce al fatto che diventa prassi consolidata e quindi di fatto è un diritto acquisito e lo Stato è costretto a farsene carico, cioè a ammettere che esiste e non è più illegale di fatto, no? L'illegalità diffusa diventa legalità acquisita, ecco. Io appunto volevo ricollegarmi a questo per riportarlo, diciamo, a una generazione più che non ha vissuto gli anni 70, che è nata a ridosso, insomma, della fine, inizio degli anni 80, negli anni 80, e che quindi un minimo ha avuto la fortuna di capire cosa era successo, e mi sono resa conto che effettivamente è come se mancassero dei pezzi di puzzle che fanno sì che quello che ha appena raccontato Elisabetta sia stato completamente oscurato, appunto. E non è stato oscurato per dimenticanza, ma è stato oscurato ovviamente per scelta politica. E quindi ovviamente un'intera generazione si è ritrovata comunque con il consultorio che era assodato, era scontato, era lì, era l'unica soluzione, andava difeso addirittura, quindi molte di noi hanno investito tante energie politiche e non solo nella difesa di queste strutture. Perché ovviamente non sapevano dell'esistenza di altro, non sapevano della messa in discussione di quello che appunto Elisabetta magari ci ha riassunto, e come sui consultori, ma come sull'aborto, cioè nel senso considerare che c'è anche altro, c'è anche un altro punto di vista, cioè l'aborto libero è perché si può fare come vuoi e non è così rischioso, anche tutta la campagna di demonizzazione di queste pratiche, noi l'abbiamo vissuta, quindi eravamo terrorizzate, no? da queste pratiche, ci è stato raccontato solo una parte, che è una parte che è successa sicuramente nella storia, insomma, ma riguarda in realtà a quello che appunto a quell'illegalità che veniva sfruttata dall'istituzione, che si nascondeva, non ammetteva, i medici che dicevano che erano contro l'aborto, però poi lo facevano illegalmente di nascosto e a pagamento. Quello era il pericolo, non certo quello di cui ha parlato Elisabetta, cioè una presa di coscienza, autodeterminazione e liberazione dei corpi. Quella è un'altra cosa e quella parte lì non è stata mai raccontata. E, per quanto riguarda i consultori sono molto più degli ospedali, luoghi in cui viene veicolato il potere e si viene oppresse. Perché nell'ospedale quantomeno tu è come con la scuola, quantomeno tu sai che ha a che fare con una specie di con un'istituzione totale. E quindi in qualche modo che la suora ti romperà, che ci avrà il medico obiettore, comunque purtroppo te lo aspetti. E quindi anche la tua forza di reazione è differente, cioè tu pretendi che non sia così. Tant'è che appunto a tutt'oggi noi pretendiamo che negli ospedali non ci sia un certo atteggiamento, che non ci sia quel comportamento, che ci siano determinate cose. Perché invece nei consultori noi diamo per scontato che ci sia solo un modo per controllare, cioè per quanto riguarda per esempio i metodi di contraccezione, viene narrata solamente un pezzo, non viene detta tutta la storia, non vengono dati tutti gli strumenti necessari a prendere coscienza del proprio corpo, ma viene medicalizzata, si viene medicalizzate sin dalla tenera età. Anzi, sempre di più, questa è una pratica che è andata sempre crescendo. E quindi non c'è più la libera scelta, perché ripetiamo, come abbiamo detto su tutto il resto, una può scegliere di prendere tutti i farmaci, medicalizzarsi quanto vuole, deve essere una, può essere una scelta personale, non stiamo sindacando su questo, ma stiamo sindacando sul fatto che un luogo che dovrebbe, che era un luogo politico, diventa, certo, un luogo dove la politica non è più quella collettiva, non è più quella assembleare, non è più quella femminista, ma diventa la politica istituzionale. Però ricordiamoci che molte pensano che il consultorio possa essere controllato dall'interno attraverso l'assemblea delle donne. Non è vero, assolutamente, è come se tu pensassi di controllare dall'interno il sindacato, come se tu pensassi di controllare dall'interno qualsiasi il carcere, cioè non esiste questa cosa, no, esatto. È un equivoco grandissimo. Questo se sei posizionata come siamo posizionate, certo, noi rispetto al femminismo, perché poi se non sei posizionata in questo modo allora puoi fare pure la guardia carceraria o non so quello che vuoi nella vita, poi certo, ognuno si posiziona dove vuole, però una questione di posizionamento politico e femminista non può esserci, certo, non ci può essere questo, e questo è importante che appunto venga ricordato, venga raccontato, per dare degli strumenti che forse ci siamo perse, ma ci siamo, sì, perse perché c'è stata una volontà politica di completamente scordare tutto quello che è stato il femminismo, e ricordandoci solamente quello che andava bene, quello che si può raccontare, e quindi era necessario insomma tirare fuori delle dei piccoli spunti per, cioè, dire di appunto esiste anche altro e in realtà si può trovare. Allora io volevo fare una nota volante sulla 194 che forse nessuno ci ha fatto caso, ma nella 194 c'è un passaggio in cui si dice che cioè che l'aborto deve essere fatto nei termini a seconda dallo Stato, cioè che non lo possono fare i medici nei loro studi privati, che sono passibili del carcere, no? Allora, detto così, questo articolo è stato accolto con molto entusiasmo, perché doveva essere contro i cucchiai d'oro, come si chiamavano, mm-hmm, i ginecologi una volta. Invece è molto grave la questione, perché praticamente scippa alle possibilità delle strutture autonome di donne di fare gli aborti per conto proprio, perché l'aborto fatto fuori dalle strutture dello Stato, chi fa l'aborto fuori dalle strutture dello Stato, chi esegue, va sul penale, no? Quindi l'autonomia delle donne che se lo facevano da sole viene penalizzata immediatamente. Allora, questa è una cosa. Poi volevo finire sulla violenza politica, per esempio, che dalla rottura dell'assemblea su Giorgio Namasi, poi questa differenza è diventata eclatante, perché al governo vecchio hanno fatto anche un convegno sul terrorismo, chiamiamolo come l'hanno chiamato loro, e non sulla lotta armata ma sul terrorismo. È venuto fuori a proposito di una diciamo azione che hanno fatto le compagne di prima linea nel 79, e che un gruppo di donne ha gambizzato una guardiana delle Nuove a Torino. E questa cosa è diventata una cosa che ha dato la stura a tutta una serie di condanne da paura, perché le donne non sono violente, e queste infatti erano in prima linea, praticamente non so, forse non erano neanche donne, diciamo vogliamo un gruppo di fuoco di sole donne, no, signore pietà, cioè che la dea ci aiuti, non si può vedere. E quindi, no, adesso a parte le battute di spirito, però questo è stato un passaggio altrettanto importante, che ha permesso un ulteriore salto nella propaganda rispetto a un certo tipo di femminismo. Dopodiché l'esperienza del governo vecchio come casa delle donne finisce a un certo punto perché loro si mettono d'accordo direttamente con il comune, cioè sindaco Ugo Vetere nel maggio del 1982, perché loro erano in rapporto continuo, no? Questo va alla Casa delle Donne e propone uno scambio, dice lasciate Palazzo Nardini e andate al Buon Pastore che stava dall'altra parte del ponte e noi ve lo mettiamo a posto, almeno in parte all'inizio, e poi ve lo diamo un affitto simbolico, insomma, irrisorio, basta già, perché ha una finalità sociale. Già il Buon Pastore doveva essere destinato alle ragazze in difficoltà, o addirittura, se non mi ricordo male, traviate, cioè qualcosa del genere, e quindi già aveva questo vincolo, quindi una finalità sociale veniva rispettata, e il Buon Pastore è stato dato al gruppo che ha accettato. Tant'è vero, qui poi nell'84 è stato sgomberato dai collettivi che c'erano rimasti, perché questi non si erano messi d'accordo. Là, quelli che sono andati di là si sono portati avanti il Buon Pastore, continuando a rapportarsi con tutte le giunte comunali che si sono succedute nel tempo, Alemanno compreso, e qui nell'84 il governo vecchio invece è stato sgomberato perché i collettivi che c'erano rimasti non erano in grado di gestire una resistenza all'occupazione. Quindi bisognerebbe stare, cioè avere la forza, la costanza, la voglia di ripercorrere la storia del femminismo. Noi siamo a Roma, parliamo di quello romano, ma basterebbe che ognuna nei luoghi che le interessano e nelle città che le interessano cominciasse a guardarsi intorno e vedere com'è andata, insomma. Comunque, Esatto. allora, vi ringraziamo della pazienza. Alla prossima puntata. Ciao a Ciao a tutte. tutte. Questo.